La tecnica è l'uomo. Dalla nona lettera dal lago di Como di Romano Guardini. Nelle celebri lettere dal lago di Como, scritte tra il 1923 e il 1925, Guardini scrive ad un amico rimasto in Germania, sviluppando profonde riflessioni sulla civiltà nell'era dello sviluppo tecnologico. Per Guardini, il progresso tecnico in sé non è certamente un male, ma lo diviene quando a non crescere in armonia con il progresso è la dimensione spirituale dell'uomo e della società in cui egli vive. Non è la tecnica che va frenata, ma l'umanità a dover essere accresciuta, consentendo all'essere umano di essere sempre signore e non schiavo di ciò che realizza e produce. Proponiamo di seguito la lettura della nona lettera del 1925. Il testo è tratto dall'edizione italiana della casa editrice Morcelliana, Brescia, anno 1993. La traduzione è di Giulietta Basso. La questione che mi tormentava era questa. È ancora possibile, in mezzo a tutto ciò che accade, un tipo di vita che sia completamente imperniato sulla natura dell'uomo e sull'opera dell'uomo? Il vecchio mondo sta crollando, e intendo la parola mondo nella sua più ampia accezione, e cioè comprendendo in essa le opere, le istituzioni, le organizzazioni e le attitudini di vita. La metà del XIX secolo segna la linea di divisione della storia, sebbene naturalmente le radici degli avvenimenti di allora siano da ricercarsi molto più addietro nel tempo. A quel mondo antico apparteneva una figura umana ben definita, universale, nonostante le molte notevoli differenze. Questo tipo universale era sostenuto dall'uomo e nello stesso tempo gli serviva da sostegno. L'uomo stesso l'aveva creato e viveva in esso, lo teneva palpitante di vita nella sua mano. Era contemporaneamente la sua opera e la sua espressione, il suo oggetto e il suo strumento. Ciò era cultura e tutta la vera cultura che oggi ancora possediamo deriva di là. In seguito si manifestano fatti nuovi. Le cose tendono a non avere più lo stesso carattere, la stessa misura, a mutare il loro punto di partenza e i loro fini. Altre sono le forze che le muovono. Le loro relazioni con la natura non sono più quelle di prima. Al contatto con il fatto nuovo che si introduce nella storia, tutto l'antico ordine di cose si sgretola. L'uomo che gli apparteneva e del quale noi tutti portiamo più o meno qualcosa nel sangue diventa un senza patria. Dirò di più, egli si riduce in se stesso, poiché il mondo ora in procinto di scomparire non esisteva che in virtù di lui ed egli a sua volta non esisteva che per mezzo di questo mondo. Il fatto nuovo non è penetrato come elemento di rottura soltanto nell'ordine obiettivo, in quanto frutto di una cultura obiettiva, ma anche e soprattutto nell'essere umano vivente. La comparsa della tecnica è, prima di tutto, un fenomeno che ha intaccato l'intimo dell'uomo. Per questo ci troviamo nella condizione di senza patria, per questo ci siamo ridotti in uno stato di barbarie. Perlomeno le cose stanno così. Se osserviamo noi stessi partendo dall'antico, poiché questo passato sente sfasciarsi il suo mondo e insieme con quello sente andare in rovina se stesso. E le cose stanno veramente così, se consideriamo le realtà nuove che ci pervengono, che arrivano in noi e al di fuori di noi, poiché tutto, almeno finora, è caos. Dunque, in quanto la questione, coscientemente o incoscientemente, fa derivare l'idea dei valori umani dall'antico tipo di umanità, la risposta da darle dovrebbe essere un rifiuto categorico. Tutto ciò che vi è di nuovo toglie all'uomo dell'antica cultura la possibilità di essere. Si potrà cercare di attenuare gli effetti di questa evoluzione, ma non la si potrà arrestare. Qui è bene approfondire questo pensiero. Se oggi abbiamo l'impressione di trovarci di fronte a una distruzione, è perché un essere e un fatto di tipo nuovo sono penetrati, modificandola brutalmente nell'antica immagine del mondo e dell'uomo. Questo elemento nuovo opera in maniera distruttiva perché incontra un uomo che non è fatto per lui. Più precisamente, è caotico e agisce da distruttore, perché l'uomo idoneo a vivere insieme a lui non esiste ancora. Questo nuovo esercita un'azione distruttiva perché non si è ancora riusciti a renderlo umano. È un assalto di forze rese libere che non sono state ancora domate, materie prime che non sono state ancora selezionate, che non sono state ancora portate a una forma spirituale vivente, che non sono ancora alla portata umana. Ora, il farsi padrone di queste materie prime e di queste forze, il raccoglierle, il dar loro una forma, il metterle in rapporto, tutto ciò per cui si crea un mondo, una cultura, non è in potere dell'uomo che faceva parte di quel mondo antico al quale si era conformato. Gli mancano, per essere all'altezza di tutto ciò, la scala delle misure, l'immagine anticipatrice, la forza. Restando fermi sul campo anticamente occupato, la battaglia per la cultura vivente sarebbe perduta e da questo passato non ci potremmo attendere altro se non una profonda confusione. La lotta potrà essere ripresa soltanto su un altro piano. Il mondo della tecnica e le sue forze scatenate non potranno essere dominati che da un nuovo atteggiamento che ad esse si adatti e sia loro proporzionato. L'uomo è chiamato a fornire una nuova base di intelligenza e di libertà che siano però affini al fatto nuovo, secondo il loro carattere, il loro stile e tutto il loro orientamento interiore. L'uomo dovrà porre il suo vivo punto di partenza, dovrà innestare la sua leva di comando laddove nasce il nuovo evento. Ma questo nuovo è costituito solo da modificazioni entro un contesto di fondamenti permanenti, o al contrario, possiamo scorgere in esso il segno di un rinnovamento storico? In caso valga quest'ultima ipotesi, e sono convinto che essa sia quella giusta, dobbiamo darle la nostra adesione. Conosco il prezzo di questo consenso. Coloro che ingenuamente hanno già optato per il nuovo e coloro ai quali sono facili i rapidi mutamenti di orientamento taceranno le riflessioni esposte in queste lettere di romanticismo retrogrado, di asservimento al passato. Di buon grado lasciamo loro l'occasione di compiacersene soddisfatti. Noi però osserviamo che si può aderire ai fatti della storia con libera scelta, con una vera e propria decisione, perché essa proviene da un cuore che sa. E ciò ha il suo peso. Il nostro posto è nel divenire. Noi dobbiamo inserirvici. Ciascuno al proprio posto. Non dobbiamo irrigidirci contro il nuovo, tentando di conservare un bel mondo condannato a sparire. e neppure cercare di costruire in disparte, mediante una fantasiosa forza creatrice, un mondo nuovo che si vorrebbe porre al riparo dai danni dell'evoluzione. A noi è imposto il compito di dare una forma a questa evoluzione e possiamo assolvere tale compito soltanto aderendovi onestamente, ma rimanendo tuttavia sensibili, con cuore incorruttibile, a tutto ciò che di distruttivo e di non umano è in esso. Il nostro tempo è dato a ciascuno di noi come terreno sul quale dobbiamo stare e ci è proposto come compito che dobbiamo eseguire. E in fondo noi non vogliamo che sia altrimenti. Il nostro tempo non è una via sulla quale dover procedere, esteriore a noi stessi. Noi stessi siamo il nostro tempo. Nostro sangue e nostra anima, questo è il nostro tempo. Siamo in rapporto col tempo come lo siamo con noi stessi. Lo amiamo e lo lodiamo in un medesimo sentimento. E ciascuno sta in rapporto al tempo secondo la propria attitudine. Irriflessivo se è irriflessivo verso se stesso, risoluto se tale è verso se stesso. Noi amiamo la forza intensa di questo tempo e la sua volontà di assumere le proprie responsabilità. Amiamo la risolutezza con cui affronta i rischi delle soluzioni estreme. La nostra anima non rimane insensibile davanti allo spettacolo di valori che cercano di farsi strada e di affermarsi. Noi proviamo commozione per tutto ciò, pur avvertendone il lato discutibile, pur restando ancora sensibili alla deliziosa attrattiva del passato. Bisogna aver lucidamente considerato ciò che si sta per intraprendere, se si vuole trovare la forza di sacrificare, con cuore saldo, l'indicibile nobiltà del passato. E neppure si deve pensare che questa evoluzione sia anticristiana. Tale può essere talvolta la mentalità che la presiede, ma non l'evoluzione in se stessa. Anzi, la scienza, la tecnica e tutto ciò che da esse deriva sono state rese possibili soltanto per mezzo del cristianesimo. Solamente un uomo, la cui anima si sapeva salva per la presenza immediata di Dio e per la dignità del battesimo, un uomo giunto così alla convinzione di essere diverso da tutto il resto della natura, poteva rompere il legame che ad essa lo univa, il che è proprio ciò che ha fatto l'uomo dell'epoca della tecnica. L'uomo dell'antichità vi avrebbe intravisto un qualcosa dal quale doversi allontanare con orrore. Soltanto l'uomo al quale l'unione con Dio ha conferito il senso dell'assoluto, al quale le parabole del tesoro nel campo, della perla preziosa e l'insegnamento della necessità di perdere la propria vita hanno fatto apprendere l'esistenza di qualcosa per la quale si deve rinunciare a tutto il resto, solamente quest'uomo ha saputo essere capace di una decisione così estrema come appunto quella che informa la scienza moderna, la quale vuole la verità anche se questa verità abbia a rendere la vita impossibile. Di una decisione che anima la tecnica, la quale vuole l'opera e dovrebbe, mediante una trasformazione del mondo, coinvolgere tutta l'esistenza umana. Soltanto un uomo che ha attinto dalla fede cristiana nella vita eterna l'incrollabile certezza che il suo essere è indistruttibile, ha potuto trovare in se stesso la fiducia indispensabile a tale impresa. Ma veramente le forze di cui parliamo sono sfuggite dalla mano della personalità vivente, o si dovrebbe dire piuttosto che è la mano che non le ha più sapute trattenere, che se le è lasciate sfuggire, e che per questo esse sarebbero cadute sotto il gioco demoniaco del numero, della macchina, della volontà di potenza? Per poter renderci padroni del nuovo, dobbiamo in giusto modo penetrarlo. Dobbiamo dominare le forze scatenate onde farle attendere alla elaborazione di un ordine nuovo che sia riferito all'uomo. Ma in ultima analisi, quest'opera non può compiersi ove si prendano come punto di partenza i problemi tecnici. Essa è resa possibile solo partendo dall'uomo vivente. Si tratta, è vero, di problemi di natura tecnica, scientifica, politica, ma essi non possono essere risolti se non procedendo dall'uomo. Deve formarsi un nuovo tipo umano, dotato di una più profonda spiritualità, di una libertà e di una interiorità nuove, di una capacità di assumere forme nuove e di crearne. La sua costituzione deve essere tale che debba trovare il mondo nuovo già nelle fibre del suo essere e nella forma stessa della presa con cui ne afferra le strutture. Per imponente che sia la mole del sapere accumulato, per quanto gigantesco sia l'apparato economico e politico, per quanto potente sia la tecnica, tutto ciò non rappresenta ancora nient'altro che pura materia prima, se misurato col metro di una scienza, di un'economia, di una politica e di una tecnica viventi. Non abbiamo bisogno di ridurre la tecnica, ma al contrario di accrescerla. O meglio, ciò che ci occorre è una tecnica più forte, più ponderata, più umana. Ci occorre più scienza, ma che sia più spiritualizzata, più sottomessa alla disciplina della forma. Ci occorre più energia economica e politica, ma che sia più evoluta, più matura, più cosciente delle proprie responsabilità, che discerna il particolare nei complessi di cui esso fa parte. Ora tutto ciò sarà possibile soltanto quando l'uomo vivente farà risaltare se stesso nell'ambito della natura delle cose, quando riferirà questa natura a se stesso e potrà così creare a nuovo un mondo. Questo mondo dobbiamo estrarlo da un immenso cumulo di forze e di sostanze di ogni genere. Una volta l'uomo aveva come primo obiettivo quello di affermarsi di fronte alla natura che lo minacciava da ogni parte, perché egli non l'aveva ancora dominata ed era quindi per lui soltanto caos. Così si cominciò ad osservare il comandamento: lavorate la terra e fate che essa vi sia sottomessa. Il caos. Caos dal punto di vista dell'uomo, prese forma e divenne il mondo dell'uomo. Via via che ciò andava attuandosi, ossia man mano che l'uomo entrava in possesso della terra e si affermava contro di essa e in essa, egli liberava proprio con la sua stessa azione forze nuove, non ancora soggiogate dalla sua attitudine personale e dalla forma del mondo novellamente creato. Queste forze andarono crescendo e oggi scatenate hanno provocato un nuovo caos. Nella parabola della storia siamo tornati esattamente al punto in cui si trovò l'uomo primitivo quando ebbe da affrontare il suo primo compito, quello di creare un mondo. Siamo di nuovo minacciati da tutte le parti da un caos che questa volta noi stessi abbiamo provocato. In primo luogo, dunque, bisogna dire sì al nostro tempo. Il problema non sarà risolto con un tornare indietro, né con un capovolgimento o con un differimento, e neppure con un semplice cambiamento o miglioramento. Si avrà la soluzione soltanto andandola a cercare molto in profondità. Deve essere possibile inoltrarsi nella via della presa di coscienza sino a giungere alla meta per moto interiore e non per pressioni o limitazioni esteriori. E deve essere possibile nello stesso tempo conseguire una nuova sicurezza interiore che non sia legata a quanto va consumato ed arso in quella presa di coscienza. Un atteggiamento di rispetto che che sostenga questo nuovo sapere, una ingenuità nuova nella coscienza, una capacità di credere anche nella scepsi. Deve essere possibile lasciar cadere le illusioni e veder tracciati rigorosamente i limiti della nostra esistenza, ma acquisire nel contempo una nuova infinità avente la sua origine nello spirito. Deve essere possibile risolvere il problema del dominio sulla natura nella misura che si è mostrata, ma nello stesso tempo dare all'anima una nuova sfera di libertà, restituire alla vita una inesauribile sicurezza in se stessa e acquistare un atteggiamento, una mentalità, un nuovo ordine per valutare in maniera vivente il sublime e l'abietto, il lecito e l'illecito, la responsabilità, i limiti, eccetera, superando il pericolo derivante dalle forze naturali sbrigliate al loro arbitrio, capaci di ogni distruzione. Deve essere possibile vedere scomparire l'antica aristocrazia del piccolo numero ed accettare il fatto della massa, quel fatto per cui ciascuno di questa folla di individui ha diritto alla vita e ai beni, ma articolare nello stesso tempo la massa in se stessa e giungere ad una nuova gerarchia del valore e dell'essere umano. Deve essere possibile seguire la tecnica nella strada su cui essa persegue uno scopo che abbia veramente un significato, permettere alle forze di tale tecnica di sviluppare tutto il loro dinamismo, anche se ciò dovesse sconvolgere l'antico ordine con le sue strutture, ma nello stesso tempo creare un ordine nuovo, un nuovo cosmo, che dovrà sortire da una umanità portatasi al livello di queste forze. Thank you.